Spazio la cultura con Enel, luci della città, 12-19 novembre, rassegna già iniziata, piazza Liber Paradisus a Bologna. Siamo con la direttrice artistica Elena Di Gioia, quindi è la prima volta che ci confrontiamo su questi appuntamenti. Di che si tratta, Elena? Allora, si tratta di una rassegna che dà spazio a concerti, spettacoli, letture in piazza Liber Paradisus alla Bolognina, e con grandi interpreti in scena, anche intrecciati a una dedica alla poesia, all'arte, anche a grandi figure che sono state legate, insomma, anche alla città di Bologna. Penso in particolare all'apertura che abbiamo vissuto con la voce strepitosa di Roberta Giallo in dedica su brani di Lucio Dalla e di brani scritti da Roberto Roversi per Lucio Dalla insieme ad altri. La rassegna si muoverà il 17, 18 e 19 settembre nei prossimi appuntamenti, con alcuni appuntamenti speciali, insomma, che viviamo così. Il prossimo sarà una lettura a doppia voce con Nicola Borghesi della compagnia teatrale Kepler 452 insieme a Lodo Guenzi, e la loro doppia voce si concentra su due testi: Canto alla durata del premio Nobel Peter Handke, un testo poetico in versi molto potente, e Sentieri nel ghiaccio, un racconto del regista cinematografico Werner Herzog. E poi a seguire nei giorni, poi c'è tutto il programma, insomma, si può trovare di Luci della città, mi fa piacere dire anche le voci e gli artisti che saranno presenti con noi. Ci sarà un match teatrale tra Iaia Forte e Marta Dallavia, condotto dal critico Lorenzo Donati, e il match proprio riprende un format degli anni 70, un format televisivo condotto da Alberto Arbasino, che si chiamava appunto Match, e quindi saranno in incontro e anche un po' in scontro performativo e di visioni le due attrici, quindi mettendo anche a confronto, vedendo insomma anche che cosa accadrà nella conduzione di Donati, anche due generazioni della scena, insomma, di linguaggi teatrali che portano avanti Iaia Forte da un lato e Marta Dallavia dall'altro. E poi a chiudere la rassegna ci sarà Luca Scarlini, che ha composto un racconto appositamente di luce ed ombra, si intitola, e sarà una narrazione in attraversamento dell'arte, anche dell'urbanistica, delle vite, tra come una sorta di breve storia dell'ombra, breve storia della luce, per come questi due poli, luce e ombra, hanno affascinato appunto le nostre vite e l'arte, anche appunto quell'attraversamento, insomma, rigoroso e pop che Luca Scarlini sa condurre. Da quest'anno, perché siamo alla seconda edizione, da quest'anno abbiamo aggiunto anche una nuova parte, diciamo, del progetto, che riguarda attività didattiche per bambini e bambine. E ogni giorno di spettacolo, nel pomeriggio, nel piazzale Liber Paradisus, ci sono dei laboratori creativi sul riuso, quindi lavorando su materiali di scarto o in trasformazione per ciò che possono comporre. La seconda edizione, Luci della città, ci puoi dire come nasce questa idea e questa collaborazione? Nasce a doppia voce anche qui tra Comune di Bologna, il programma è all'interno di Bologna Estate, ed Enel Energia. E infatti il sottotitolo della rassegna Luci della città è Spazio alla cultura con Enel, che proprio lì al Liber Paradisus ha un punto vendita, un punto di riferimento. E non è scontato, ecco, che anche una grande impresa, insomma, come Enel, decida di investire sulla cultura e sulla Bolognina e su quello spazio. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero, e quindi nasce proprio da un pensiero, ecco, di aprire quella piazza, che tra l'altro si sta rivelando anche nelle serate con i giochi i riflessi proprio anche dell'allestimento molto, molto affascinante, oltre ad essere in un quartiere particolarmente bello, secondo me, anche con progetti di trasformazione, insomma, che puntano sulla cultura importanti. Sull'allestimento, la rassegna è organizzata da Cronopios, e sull'allestimento hanno pensato a un allestimento appunto tutto in trasparenza, la platea, il palco, quindi c'è nel dialogo con il grande palazzo che è il comune, che è la sede del comune, quindi anche una scelta simbolica, insomma, di centralità essere lì, si crea appunto un intreccio e anche un dialogo. Venerdì 17, l'appuntamento ovviamente venerdì 17 settembre alle ore 21 con Nicola Borghesi, fondatore della compagnia Kepler 452, e Lodo Guenzi, il cantante dello Stato Sociale, insieme sul palco per lettura scenica di due significativi testi. Uno che amo in particolar modo è quello di Peter Handke, che è uno dei miei scrittori, insomma, al quale do più attenzione anche nelle rubriche letterarie. Che dire, io ti ringrazio, sei super impegnata, Elena, in questo periodo, non solo, ma in questo che momento. È un bel segnale, speriamo, non personale, insomma, è un bel segnale, ecco, per la cultura, per tutti, insomma, speriamo di ripartire, che questo settembre, insomma, anche ci traghetti a un autunno in cui continuare a ritrovarci a teatro, nei musei, nei cinema, insomma, nelle biblioteche, ecco, nei luoghi della cultura. Restiamo in contatto con il Breakfast Club e con il 103.1 di Radio Città Fujiko. Ti ringrazio tantissimo e ti auguro una buona giornata. Grazie Elena, ciao. Grazie a te, a chi mi ascolta. Ciao.